I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Salvo sorprese, quello di oggi sarà un Black Friday fortunato e positivo. Nulla a che vedere quindi con i Black Fridays, quindi i venerdì che hanno contraddistinto alcune sedute di borsa negli ultimi anni. Stiamo infatti parlando della corsa agli acquisti che arriva negli Stati Uniti oggi, cioè il giorno dopo la pausa per la festa del ringraziamento. 3 americani su 4 prevedono di fare acquisti, infatti oggi la spesa dovrebbe aggirarsi intorno ai $400. Tra l'altro è probabile che sia un successo negli Stati Uniti questo venerdì nero, perché gli americani si sono presi una pausa nei consumi interni, negli acquisti, in attesa di vedere i risultati delle presidenziali dell'8 novembre e quindi andranno a recuperare probabilmente oggi. L'origine del nome appunto non deve trarre in inganno e ne esistono due versioni. Una vuole che la definizione venerdì nero sia nata come conseguenza dell'enorme traffico che si verificava il giorno dopo la festività del ringraziamento, l'altra invece perché portava i conti di molti commercianti dal rosso appunto al nero. La cosa interessante è che vi sarà un andamento forse anche simile il lunedì prossimo, quando si verificherà il cosiddetto Cyber Monday, ossia sconti a livello planetario di tutti i grandi operatori nel commercio online. Alcuni di loro hanno già iniziato in realtà oggi, ma anche in questo caso è facilmente prevedibile che con le festività natalizie alle porte vi sia un ricorso massiccio in Europa come negli Stati Uniti alle promozioni per gli acquisti online. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Con il 62esimo voto di fiducia del governo Renzi, oggi prende forma quasi definitiva la legge di bilancio per il prossimo anno. Nel passaggio alla Camera si è appesantita di 540 milioni e nel complesso quindi la manovra finale sale da 26,5 a 27 miliardi. Le modifiche più consistenti sono arrivate in tema di pensioni. La prima è la possibilità di cumulare gratuitamente contributi versati in diverse casse previdenziali e viene estesa anche al mondo delle professioni. Poi è stata ampliata la platea degli esodati, che potrà beneficiare dell'ottava finestra utile a modificare il vuoto normativo lasciato dalla legge Fornero per chi ha perso i requisiti del pensionamento nel momento in cui ha deciso di lasciare il lavoro, quando invece valevano le regole precedenti, e nel complesso diventeranno 30.000 lavoratori interessati. Per le donne è stato deciso l'accesso all'anticipo pensionistico, cioè la nuova forma di pensionamento anticipato flessibile, quando si abbiano 35 anni di contribuzione, e questa novità vale per chi sia nata negli ultimi 3 mesi del 57 e del 58. È previsto anche un disboscamento delle norme per ottenere il pensionamento per chi si è impegnato in lavori usuranti. Era una semplificazione attesa da tempo e quindi è una buona cosa. Nel complesso il temuto assalto alla diligenza non c'è stato e le nuove modalità di definizione della legge di bilancio hanno aiutato ad alzare gli argini. Vedremo ora se al Senato verrà mantenuta la stessa linea di contenimento. Sarà un po' più difficile perché il budget dei senatori, 300 milioni, uguale a quello dei colleghi della Camera, si è già quasi tutto consumato, evidentemente per lo sforamento realizzato proprio dai loro colleghi di Montecitorio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.